Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera, iniziamo malissimo. Buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. Come sempre poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, www.radio24.it. Oggi sarete con me, domani torna come sempre Sebastiano Barisoni. Di che cosa parleremo oggi? Bene, ci occuperemo ancora del decreto fiscale, ci torneremo. Ieri abbiamo fatto un punto in generale sui contenuti, oggi andremo un po' di più sull'analisi, ragioneremo intorno a questo decreto fiscale, che cosa rappresenta, perché se da una parte, lo scrive bene Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore che sarà con noi, se da una parte si è promessa semplificazione e questa semplificazione in parte c'è l'aggiunta di nuovi adempimenti, se da una parte si promette come sempre lotta all'evasione fiscale, se è scorretto dire che questo decreto fiscale è pieno di condoni, di certo, come dire, a chi non è stato proprio fedelissimo al fisco, qualche regalo questo decreto fiscale oggettivamente lo fa, e cercheremo di ragionare intorno a questo argomento. Su questo, come sempre, aspetto anche le vostre opinioni per vedere che cosa ne pensate. Ci occuperemo parecchio di banche nella giornata di oggi, perché da una parte c'è l'indiscrezione pubblicata dal Sole 24 Ore di oggi che riguarda UniCredit e che riguarda questa ipotesi di un maxi accantonamento per le sofferenze, ossia per i crediti più difficilmente esigibili o non più esigibili. Dall'altra parte ci sono una serie di vicende giudiziarie che tornano a manifestarsi proprio nella giornata di oggi, proprio sul fronte della cronaca. Da una parte quelli che riguardano UbiBanca, sono state chiuse le indagini per 39 persone, e tra le persone per le quali sono state chiuse le indagini ci sono anche Giovanni Bazzoli, l'amministratore delegato di UBI Victor Massià, il presidente del consiglio di sorveglianza Andrea Moltrasio. Tra i reati contestati ai 39 indagati, variamente e a vario titolo, c'è l'ostacolo alla vigilanza, l'illecita influenza sull'assemblea, la truffa, il conflitto di interesse e gli illeciti tributari. Ovviamente, quando abbiamo fatto questi nomi, perché sono i nomi più noti, non è che queste tre persone vengono contestati tutti questi reati. Appunto, tra gli indagati sono contestazioni anche per questi reati, tra le altre cose. La procura di Bergamo parla anche di illeciti formali previsti dalla normativa antiriciclaggio e dalla normativa sul trattamento dei dati personali. Dall'altra parte la vicenda di Carige, della Cassa di Risparmio di Genova, anche qua notizie giudiziarie, 6 anni di carcere richiesti dal PM Silvio Franz per l'ex presidente di Banca Carige Giovanni Berneschi. E ancora abbiamo notizie pure sulla Popolare di Vicenza, oggi non sono giudiziarie ma è un audit, un documento interno sul sistema di compravendita delle azioni della Popolare di Vicenza prima della trasformazione in SPA. Si parla di ordini lavorati a mano, registri su file Excel senza password e modificati da qualsiasi dipendente e tempi di lavorazione lunghi. Quindi di banche parleremo parecchio oggi sicuramente. Avrete sentito nei nostri giornali radio del pomeriggio e forse anche oggi in effetto giorno, se eravate in ascolto, questi dati che sono stati forniti, e questo sarà il nostro l'ultimo argomento che tratteremo, dall'Osservatorio Salute. Che cosa illustrano questi dati? Illustrano che ci sono una serie di regioni del Mezzogiorno nelle quali l'aspettativa di vita rispetto al nord è più bassa. Ovviamente dipende da tanti motivi, ma uno di questi motivi è la qualità dell'assistenza sanitaria. E la qualità dell'assistenza sanitaria è un tema anche strettamente economico e che riguarda da vicino il fronte di questo federalismo sanitario, che se in alcuni luoghi d'Italia ha prodotto dei frutti eccellenti, in altri luoghi d'Italia ha prodotto dei frutti pessimi, immangiabili, per rimanere in metafora. I mercati come vanno? In questo momento si stanno riprendendo, le ultime notizie, ve le ha dette anche il giornale radio, sono quelle che arrivano da Janet Yellen, la presidente della Federal Reserve, la banca centrale Federale Americana, che parla di un avvicinarsi della manovra di aumento dei tassi. Il FTSE MIB, che è stato in negativo, è arrivato a perdere oltre l'1%, cede in questo momento lo 0,15%, il FTSE share lo 0,17%, con le altre borse europee che sono generalmente positive. Parigi guadagna mezzo punto percentuale, Francoforte lo 0,18%, Londra lo 0,62%, l'America è negativa sul Dow Jones anche se di poco, meno 0,02%, e positiva sullo Standard & Poor's 500, guadagna lo 0,28%. A pesare sul listino milanese rispetto alle altre borse europee sono proprio i bancari, con Banco Popolare che cede il 6,11%, Popolare di Milano il 5,8%, Unicredit il 4,8%, Popolare Emilia Romagna il 4,6%, Monte dei Paschi il 3,21%, Mediobanca il 2,16, Intesa San Paolo l'1,99. Visto che ci siamo, poi ci sarà l'approfondimento di borsa, vi do anche alcuni dei titoli in positivo: Luxottica che guadagna il 3,62, Campari il 2,6, Buzzi Unicem il 2,37, Enel l'1,7, Eni l'1,6, Jux Net-a-Porter l'1,5%. Le notizie in breve di oggi. Ringrazio l'attenzione per l'attenzione l'ascoltatore che dice se durante la notte mi occupo anche di pulire gli uffici di Radio 24. No, questo non ancora. Ogni tanto Sebastiano Barisoni mi chiede di sostituirlo e lo faccio volentieri, perché insomma è anche un'altra trasmissione, è un tema del quale mi occupo, quello dell'economia, col quale mi diletto naturalmente, quindi son qua. E spero che per quel giorno ogni tanto non sentiate troppo la mancanza di Sebastiano. Allora, il fronte delle materie prime, iniziamo come sempre: l'oro stabile a 1225,9 dollari l'oncia. Per quanto riguarda il petrolio, lo abbiamo in risalita. Stamattina c'è stata una fiammata, un più 1% a 46 dollari al barile. Adesso il rialzo c'è, ma è più contenuto. Il WTI, quello quotato a New York con consegna a dicembre, più 0,66%. A 45,8 dollari al barile. Il Brent con consegna a gennaio guadagna anche qua lo 0,6% a 46,9 dollari al barile. Iniziamo dalla Russia oggi con le notizie, va, perché Roskomnadzor, spero di averlo pronunciato giusto, sicuramente degli ascoltatori russofoni che ci stanno ascoltando mi correggeranno, l'ente governativo russo preposto al controllo dei mass media e delle telecomunicazioni, ha annunciato di aver chiesto a tutti gli internet provider di bloccare LinkedIn. Per chi non lo conoscesse, è un social network professionale dedicato espressamente, o almeno così dovrebbe essere, in Italia viene un po' utilizzato come Facebook ogni tanto, però diciamo è un social network dedicato al mondo professionale, per le connessioni professionali. Il 10 novembre un tribunale di Mosca ha respinto il ricorso di LinkedIn contro il blocco in Russia. Qual è l'accusa? L'accusa è di tenere i dati degli utenti fuori dalla Russia, in server fuori dalla Russia. L'America. La squadra del presidente eletto Donald Trump ha annunciato che verranno esclusi dal suo team di transizione tutti coloro che fanno attività di lobbying e che i membri della futura amministrazione non potranno lavorare come lobbisti per 5 anni dopo aver concluso il loro incarico di governo. È tra l'altro una delle promesse elettorali che Trump aveva fatto in campagna elettorale. Aveva promesso di, aperte virgolette, drenare l'acquitrinio con riferimento a Washington e a quella zona grigia dei rapporti tra politica e interessi vari che Trump ha più riprese condannato. Al tema anche dei conflitti di interesse dell'amministrazione Trump sono dedicati 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, che vanno in onda anche su RDS, su Radio Dimensione Suono. Oggi è firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Plateroti.

Abbiamo uno spread tra BTP e Bund in risalita a 181 punti con rendimenti ampiamente sopra il 2%, 2,1, 2,2% per quanto riguarda i titoli decennali italiani. Abbiamo il premier francese Manuel Valls che dice l'Europa può morire, c'è un pericolo che arriva dall'estrema destra. E a proposito di Europa, abbiamo un presidente del Consiglio Renzi che ribadisce: siamo pronti anche al veto sul bilancio europeo, ma non per egoismo, non per egoismo. In questa giornata, tra l'altro, è stato raggiunto l'accordo sul bilancio europeo, con più risorse su migranti, giovani e crescita rispetto all'anno scorso, ma l'Italia per la prima volta si è astenuta. Sentiamo Renzi. Noi oggi non possiamo dire a quei paesi che bloccano gli accordi sull'immigrazione che noi oggi smettiamo di finanziare la nostra quota parte, che è una quota parte superiore a quello che recuperiamo, non lo possiamo dire, ma possiamo, e lo stiamo facendo, annunciare che nel prossimo bilancio, che inizierà la discussione proprio nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, noi siamo pronti a ogni tipo di intervento, sinanco ad arrivare al veto, se non vi sarà una corrispondenza di impegni e di obblighi. Cioè, noi non vogliamo fare gli egoisti, noi siamo pronti a contribuire, siamo pronti a fare la nostra parte. Ma chiediamo che ci sia da parte dell'Europa uno sguardo più degno della grande storia di questo continente, di questa istituzione, e quindi chiediamo che vi sia più attenzione, che vi sia più rispetto per l'immigrazione, che vi sia più attenzione sulla crescita, che quel modello economico che negli anni dell'austerity è stato presentato come l'unica spiaggia, l'ultima spiaggia, l'unica chance, e che ha dimostrato i propri limiti e le proprie debolezze, sia finalmente accantonato e superato. E chiudiamo questo giro delle notizie in breve, visto che poi le informazioni un po' sul anche giudiziarie che riguardano le banche ve le ho date prima, con le parole del ministro dell'economia Piercarlo Padoan, che parla della situazione economica europea, parole che cadono a fagiolo perché poi entriamo in quella che è la diretta materia di competenza di Padoan, ossia il decreto fiscale. Sentiamo Padoan e poi andiamo col primo argomento. Ci sono ancora fonti di fragilità che vanno aggredite ed eliminate. Ma c'è anche una forte incertezza politica in Europa. La scelta di politica economica in molti dei governi, almeno di quelli che andranno alle elezioni, sembra essere un atteggiamento di attesa. Quindi c'è la combinazione di una debolezza, chiamiamola così, economica in Europa con una insufficiente risposta di politica. Questo è un problema, perché almeno per me, perché invece l'Europa ha un grande bisogno di cambiamento. Ok, correggo l'errore. Campagna referendaria, non campagna elettorale, però capite bene che in questa situazione, parlo tanto agli esponenti del sì quanto quelli del no, è facile confondere le due cose. Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore, ciao, buonasera e bentornato. Grazie, buonasera. Allora, per fare un punto sul decreto fiscale, decreto fiscale del quale abbiamo riassunto ampiamente i contenuti ieri. Oggi ci sono un sacco di pagine sul Sole 24 Ore, un sacco di approfondimenti e anche di chiarimenti per gli ascoltatori che sono interessati. Con te oggi vogliamo fare un ragionamento un po' più generale e, se vogliamo, un po' più di analisi su questo decreto fiscale e su quello che rappresenta, arrivati finalmente all'approvazione. Su quello che rappresenta soprattutto dal punto di vista delle promesse che ha fatto il governo, in termini proprio di direzione nella quale vuole portare il fisco, un fisco più amico, un fisco appunto meno opprimente. C'è il tema della lotta all'evasione fiscale. Che cosa vedi tu? Ma sai, come al solito, quando arrivano questi provvedimenti che si pongono questi diciamo, obiettivi tutti belli, tutti condivisibili, che tutti insomma, auspichiamo da anni, le nostre aspettative sono insomma, sempre altissime. Poi la realtà dei fatti purtroppo è un pochino diversa, quindi io direi che ridimensionando un pochino diciamo, la portata strategica del provvedimento, mi limiterei a dire che è un provvedimento molto importante perché legato a queste misure ci sono 4 miliardi e mezzo di nuove entrate che sono una parte diciamo, importante, consistente della manovra di bilancio che nelle prossime settimane assumerà la sua veste definitiva. Quanto alle misure specifiche contenute nel provvedimento, che pure ovviamente hanno un impatto molto significativo sugli operatori, sui professionisti, sulle imprese, talvolta anche sulle famiglie, beh, qui insomma il giudizio mi sembra che sia un pochino diviso, nel senso che è evidente che si nota all'interno del provvedimento il tentativo di andare nella direzione che citavi tu, cioè quella di rendere insomma il fisco più vicino, più attento alle esigenze degli operatori, e quindi ci sono alcune misure, ad esempio il tentativo di razionalizzare il calendario delle scadenze, che è sappiamo che nell'arco dell'anno si creavano 2 appuntamenti molto affollati di scadenze a metà giugno e a metà dicembre, e adesso insomma si cerca in qualche modo di porre rimedio. Peraltro i professionisti che avevano a gran voce chiesto queste cose non sono contentissimi, perché poi quando tu vai a spostare una scadenza dal 16 giugno al 30 giugno, poi ti accorgi che il 30 giugno comunque hai le scadenze di fine mese. Quindi insomma è molto complicato semplificare il fisco. A dire il vero, uno degli obiettivi era quello di ridurre gli adempimenti, invece scopriamo che qui è vero che riducono qualche cosa, perché tolgono una cosa che si chiama lo spesometro, tolgono le comunicazioni blacklist, gli operatori sanno cosa sono, ma insomma delle comunicazioni che i contribuenti devono inviare all'amministrazione finanziaria. Tolgono 2, però ne introducono 8, perché ogni 3 mesi dovranno insomma inviare i dati delle fatture, i dati sull'IVA, eccetera. Certo. Quindi, che è durissimo ogni volta. Mi spieghi una cosa, Salvatore, tu che ti occupi di queste cose da anni, ma come mai succede una cosa di questo genere? Cioè c'è il momento magari nel quale un provvedimento passa, per così dire, nelle mani di quelli che sono i funzionari, che poi spesso capita che scrivano direttamente i provvedimenti, che non lo so, non riesco a capire come mai. Ma io, guarda, è molto difficile spiegare come mai succedano queste cose. Senz'altro, e insomma lo abbiamo un po' scritto anche in questi giorni sul giornale, succedono queste cose perché manca una visione complessiva, una visione strategica, una visione di insieme delle complicazioni del sistema fiscale, e spesso noi siamo portati a credere che le complicazioni siano solamente legate agli adempimenti. Invece il nostro è un sistema fiscale che è complicato a monte, che è complicato nella legislazione, che è complicato nelle norme. Quindi forse per fare un vero percorso di semplificazione bisognerebbe partire da lì. Però lì servirebbe davvero una riforma radicale, che forse in questo momento... Riscrivere le norme, il diritto fiscale. Esattamente, perché gli adempimenti sono complicati, perché le norme sono complicate. Poi devo dire, l'amministrazione e in questo caso il governo e il Parlamento che ha approvato queste norme ci mettono del loro, perché qui diciamo con l'obiettivo giusto di agevolare alcune misure di lotta all'evasione, però si vanno a chiedere ulteriori adempimenti a carico dei contribuenti, col risultato che chi è onesto continua diciamo a sobbarcarsi anche l'onere, no? Il costo degli adempimenti, e i disonesti continueranno a fregarsene bellamente. L'ultimo aspetto, secondo me, che va un po' sottolineato all'interno del decreto è che è un decreto che senz'altro si caratterizza per la numerosità delle diciamo sanatorie fiscali che ci sono dentro, no? Perché qui sappiamo la rottamazione delle cartelle, la nuova apertura della voluntary disclosure, durante la conversione in legge alla Camera hanno inserito anche una chiusura agevolata di alcune tipologie particolari di liti fiscali, di contenzioso fiscale. Quindi insomma sono 3 misure che vanno in quella direzione. Io l'ho scritto anche oggi, insomma è sbagliato dire che sono dei condoni. Non sono dei condoni perché in alcuni casi, anche sulle cartelle, a volte l'importo che si deve sborsare è comunque un importo rilevante. Però, come sempre in questi casi, quando tu fai una regolarizzazione, qualche sconticino lo vai a fare. Quindi non sono cose clamorose, però di nuovo confermano, danno l'idea di questo fisco che poi a un certo punto, insomma, il favore a chi è stato meno onesto in passato finisce sempre per farlo, che secondo me non è mai un bel messaggio. Quindi l'idea è che ci sia, insomma, qualche passo avanti ma anche qualche passo indietro. Purtroppo confermo. E così chiudiamo, ti ringrazio, grazie a Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore. Immagino che tra l'altro stiate preparando, insomma, anche in queste ore parecchie pagine su questi temi. Grazie, quindi le trovate sul Sole 24 Ore di domani. Noi adesso ci fermiamo, c'è il meteo, ci ritroviamo subito dopo e ovviamente andremo come sempre a quest'ora sui mercati. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. E siamo alla giornata di borsa, che ha visto una virata nella fase finale, quantomeno per quanto riguarda Milano, con il FTSE MIB che chiude in calo dello 0,03% dopo aver perso oltre l'1%, il FTSE Share lo 0,04%, Parigi guadagna lo 0,6%, Francoforte lo 0,2%, l'America in pareggio sul Dow Jones, lo Standard & Poor's 500 guadagna lo 0,35%. Andrea Fontana, Radio Corriere, il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Immagino che le parole di Yellen abbiano influito in qualche modo, no? Sicuramente ha dato un messaggio rassicurante sul mercato. Innanzitutto ha confermato le prospettive di un rialzo dei tassi in tempi brevi, quindi insomma le scommesse dei mercati danno ormai per scontato un ritocco al costo del denaro americano nel mese di dicembre. E poi ha anche dato un segnale di continuità della sua politica anche nell'era Trump, laddove invece si diffondevano i dubbi sulle divergenze di opinione che si sono viste in campagna elettorale americana, in particolare tra l'inquilino della Casa Bianca e la Presidente della Federal Reserve, e quindi è confermato l'idea di procedere a un progressivo, quindi graduale normalizzazione dei tassi di interesse negli Stati Uniti e di rimanere in carica fino alla conclusione del suo mandato alla guida della Federal Reserve. Quindi segnali di continuità che certamente hanno influito nel recupero dei mercati sul finale e che hanno rafforzato ulteriormente il dollaro, che ha aggiornato i massimi da praticamente un anno nei confronti dell'euro. Per quanto riguarda il listino milanese, dominio assoluto, a ribasso intendo, delle banche. Banco Popolare meno 5,6, Popolare Milano meno 5,04, Unicredit meno 4,7, su Unicredit ci torneremo tra un attimo e lo faremo con Marco Ferrando del Sole 24 Ore per fare un punto su appunto questa ipotesi di maxi accantonamento per le sofferenze. Popolare Emilia Romagna meno 4,25, Monte dei Paschi meno 3,2, Mediobanca meno 2,2, e poi abbiamo anche dei non bancari come Leonardo Finmeccanica che cede il 2,17, ma tra i bancari anche UBI Banca che cede l'1,7. Direi le banche, no, sono state lo snodo di oggi, non è la prima volta tra l'altro. Sì, è qualche giorno che vediamo le banche italiane nello specifico molto più nervose, molto più vendute di quello che succede in Europa. Oggi l'indice europeo dei bancari ha fatto addirittura più 0,3%, mentre quello italiano ha perso praticamente il 3%. Sicuramente non si può non intravedere in questo e nel movimento del decennale italiano, nel BTP decennale, il titolo di Stato tornato a un rendimento del 2,1% con uno spread nei confronti del Bund tedesco sopra i 180 punti, non si può non vedere, dicevo, un nervosismo in vista dell'appuntamento politico importante di inizio dicembre, cioè del referendum costituzionale, che sta certamente alimentando un po' di apprensione su quelli che sono sono gli asset specificamente italiani e quindi le banche innanzitutto. Certamente. Per quanto riguarda gli altri titoli, banche a parte, direi a questo punto, va bene, abbiamo Mediobanca che ho già presentato il piano industriale, che è stato accolto bene dagli analisti, ma soffre del fatto che scendono tutte quante. Generali. Sì, Generali ha sofferto, diciamo, di riflesso in un tema che riguarda invece Mediobanca, perché nel piano industriale è stata confermata la volontà di scendere nella quota di partecipazione che Mediobanca detiene in Generali dal 13% attuale al 10% nell'orizzonte del piano, cioè di qui al 2019, ma non è stato escluso dagli stessi manager di Mediobanca e anche da indiscrezioni riportate dai Financial Times che la quota di riduzione possa essere ulteriore, per cui che Mediobanca possa scendere anche sotto al 10% nelle generali. E questo un po' di tensione lo sta portando in questi giorni sul titolo Generali, perché naturalmente potrebbe portare, anche se la cosa venisse progressivamente, a una disponibilità di carta, cioè di titoli sul mercato superiore, quindi un aggiustamento era prevedibile, il titolo ha perso l'1,7%. Listino mi sembra sostenuto dall'altra parte dal lusso, genericamente inteso Luxottica più 3,68, Yux Net-a-Porter più 1,69%. Moncler più 1,21, Ferragamo più 1,15%, gli altri titoli Buzzi Unicem più 3,27, Campari che guadagna il 2,8%, ST Microelectronics l'1,46% e poi c'è Eni che guadagna l'1,45%. Molto brevemente, immagino che il rialzo del prezzo del greggio incida su questo, no? Sì, è stato un po' volatile il petrolio, ma è tornato anche sopra i $46 al barile a New York, cioè è in corso in questi giorni l'appuntamento di Doha tra i massimi paesi esportatori. Il tema è sempre quello dei livelli di produzione e la decisione arriverà a fine mese, 30 novembre, meeting di Vienna dell'OPEC, però siamo destinati probabilmente a 15 giorni di volatilità sul prezzo del petrolio e le società petrolifere ne risentono. Grazie Andrea Fontana, Radio Cor, Il Sole 24 Ore, traffico. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRT di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Focus Economia. Ed eccoci di nuovo a 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. Come sempre, adesso ci occupiamo di banche. L'abbiamo già fatto prima in realtà, parlando di come sono andate in borsa, ma adesso ci sono altri fronti. A partire da quello di Unicredit, secondo quello che ha anticipato oggi Il Sole 24 Ore, con un pezzo di Marco Ferrando che è in studio con noi. Marco, buonasera. Buonasera a voi. Che starebbe lavorando ad un maxi accantonamento da 7-8 miliardi di euro per ripulire completamente il bilancio dai crediti in sofferenza, questo da una parte. E dall'altra parte ci sono un altro po' di notizie, come vi citavamo in apertura, che riguardano le banche e le... in parte anche le difficoltà giudiziarie delle banche. Abbiamo oggi la chiusura delle indagini per quanto riguarda le vicende di Ubi, riguarda 39 persone, chiusura delle indagini anche per Bazzoli, Massià e il Presidente del Consiglio di Sorveglianza Moltrasio. Abbiamo dall'altra parte la vicenda Carige, sono due vicende molto diverse, chiariamolo bene, adesso ci arriveremo. Sono stati chiesti 6 anni dal Pubblico Ministero Silvio Franz per l'ex Presidente della Banca Giovanni Berneschi, che abbiamo ampiamente raccontato nelle nostre cronache. E poi ci sono altri elementi interessanti sulle banche che hanno avuto problemi, come per esempio Veneto Banca, lo abbiamo raccontato ieri, lo ha raccontato anche Sebastiano Barisoni in Focus Economia. È stato dato il via libera alla azione di responsabilità. Di tutto questo parleremo con Fabio Pavesi, sempre del Sole 24 Ore, che è in studio con noi. Fabio, ciao. Buonasera a tutti. E bentornato ai nostri microfoni. Dunque, iniziamo da Unicredit con Marco Ferrando. Una vicenda questa che, tra l'altro, Marco, riporta un po' alla ribalta un tema che avevamo lasciato sotto traccia, che è esattamente quello delle sofferenze, cioè dei crediti non più esigibili. Sì, è così. Si sa che Unicredit sta lavorando a un piano molto, molto rilevante dal punto di vista dei numeri, piano che verrà presentato il 13 dicembre, indiscrezioni di stampa, anche nostre, davano già nei giorni scorsi un ammontare possibile della sola componente di aumento intorno ai 13 miliardi, che è una cifra enorme. Basta pensare il Monte, che in altre condizioni è d'accordo, ma le difficoltà che sta incontrando per trovare i suoi 5 miliardi. Insomma, quello che risulta è che dentro questo piano, accanto all'aumento che dovrebbe portare risorse fresche, ci sarà un capitolo riservato e molto consistente relativamente ai crediti deteriorati, che sono un problema di tutti, anche di Unicredit. Ebbene, quello che sembra un po' la condotta di gara che voglia assumere il nuovo amministratore delegato Mustier è quello di azzerare completamente, diciamo di portare a valore di mercato, quindi indicativamente il 25%, tutti i 60 miliardi di sofferenze lorde che sono nei conti di Unicredit, quindi in Italia, ma non solo, anche se oggettivamente è l'Italia a pesare soprattutto dentro i conti di Unicredit al capitolo sofferenze. Quindi 8-9 miliardi di rettifiche possibili, che da un lato spiegherebbero l'ammontare così rilevante dell'aumento, parlavamo prima di 13 miliardi, ma al tempo stesso dovrebbero consentire a Mustier di presentarsi sul mercato con questo aumento, offrendo ai nuovi investitori la possibilità di appunto mettere i loro soldi in una banca che si presenterebbe, diciamo, completamente ripulita o completamente ripulibile, perché verosimilmente buona parte dei crediti rimarrebbero in pancia senza ulteriori svalutazioni. Sì, la sostanza è questa: non ti faccio mettere i soldi in un aumento di capitale di una banca carica di sofferenze, no? fino al collo, ma cerco di ripulire la banca prima e poi mi presento per l'aumento di capitale, no? Che sarebbe anche abbastanza fair, come si dice. Esattamente. Ci sarebbero evidenti analogie, seppur lo stato di salute del paziente è molto diverso, con il Monte dei Paschi. In questo caso Siena è stata forzata dalla BCE a condurre questa pulizia totale, nel caso di Unicredit invece sarebbe una scelta del management, ma evidentemente le analogie ci sono. Non stupisce la reazione del mercato di oggi, perché è la sindrome del benchmark: se due banche si muovono nello stesso modo, quindi prima MPS, nel caso, noi parliamo di ipotesi, fino al 13 dicembre non ci saranno certezze, nel caso in cui Unicredit assumesse una posizione simile, è chiaro che il mercato chiederebbe, o perlomeno si aspetterebbe, che il comparto nella sua interezza si muova sugli stessi livelli di accantonamenti, di coperture, e lì sarebbero dolori, perché mediamente tutte le banche ovviamente hanno coperture più basse dei valori di cui parlavamo prima. E così spieghiamo anche l'andamento di mercato di oggi, in sostanza, mi sembra di capire, no? Esattamente, Marco? Esattamente. Infatti, quindi è colpa tua? Diciamo si che si scherza. Sì, no. C'è un dato, è che ogni volta che si parla di NPL e di possibili contromisure delle banche al riguardo, il mercato è molto sensibile, perché alla fine sono e continuano a essere il peso che grava sulle banche italiane in misura molto più pesante rispetto alle banche europee. Sono il punto il tallone d'Achille, uno dei tanti, ma forse quello più consistente delle nostre banche, quindi ogni volta che se ne parla il mercato fa i conti e tendenzialmente, ai noi, vende più che comprare. Allora, grazie a Marco Ferrando del Sole 24 Ore, chiedo scusa a Fabio Pavesi, lo faccio attendere ancora un po', tra l'altro in uno studio nel quale qualcuno incredibilmente ha acceso l'aria condizionata e quindi stiamo letteralmente congelando, però dopo il GR, sperando nel frattempo lo studio si riscaldi, torniamo a parlare di banche. Vuoi andare all'estero per lavorare, studiare o semplicemente per cercare opportunità che in Italia non trovi? Le dritte giuste, i paesi giusti, i lavori giusti, ve li forniamo noi ogni sabato su Radio 24. Le storie di chi all'estero ce l'ha fatta e ci indica una strada da seguire. Sono Sergio Nava, vi aspetto tutti i sabati alle 13.30 con Giovani Talenti. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da... Columbia Threadneedle Investments, il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, seconda parte di Focus Economia. Di nuovo buonasera da Simone Spezia a tutti. Oggi siete con me per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, domani torna Sebastiano Barisoni, e per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, come sempre a quest'ora diamo un quadro generale e molto veloce dell'andamento dei mercati. Vi dico che Milano ha chiuso sostanzialmente in pareggio dopo una giornata negativa, molto negativa, è arrivata a perdere oltre l'1%, meno 0,03% il FTSE MIB, meno 0,04% il FTSE All Share, Parigi che guadagna lo 0,6%, Francoforte lo 0,20%, l'America è positiva con lo Standard & Poor's 500 che guadagna lo 0,4%, il Dow Jones lo 0,06%. Euro a 1,06 sul dollaro, questo è il cambio, molto male le banche oggi, Banco Popolare meno 5,6, Popolare Milano meno 5,04, Unicredit meno 4,7, Pop Emilia Romagna meno 4,25, Monte dei Paschi meno 3,2, in cima al listino Luxottica più 3,6, Buzzi Unicem più 3,2, Campari più 2,8, Jux Net-a-Porter più 1,6, ST Microelectronics più 1,46%. Abbiamo parlato prima di Unicredit, adesso invece cerchiamo di mettere insieme un po' di notizie che sono arrivate oggi, anche di stretta cronaca tra ieri e oggi, che riguardano una serie di banche e che del territorio, e che sono notizie come dire, in parte correlate a vicende giudiziarie, in parte che potrebbero correlarsi a vicende giudiziarie in futuro. In questa seconda fattispecie rientra il sì dell'Assemblea di Veneto Banca all'azione di responsabilità nei confronti degli ex vertici per il dissesto dell'istituto di credito. Inizierei però, Fabio Pavesi del Sole 24 Ore, di nuovo buonasera. Buonasera a te. Inizierei dalla notizia arrivata questa mattina, se vogliamo andare in ordine cronologico, e che riguarda la chiusura delle indagini per 39 persone per quanto riguarda UBI Banca. Si tratta di 28 persone tra amministratori e dirigenti pro tempore del gruppo di gruppo UBI Banca, e poi ci sono anche persone esterne al gruppo bancario in relazione alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Chiusura indagine anche per Giovanni Bazzoli, per l'amministratore delegato di UBI Victor Massià, il presidente del consiglio di sorveglianza Andrea Moltrasio. Tra i reati contestati ai 39 indagati, e quindi chiariamo, non è che sono reati contestati tutti a tutti gli indagati, ma a vario titolo: ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza, illecita influenza sull'assemblea, truffa in osservanza delle obbligazioni da parte di esponenti bancari, conflitto di interesse e anche illeciti tributari. Allora, Fabio, inizierei da qua per chiederti soprattutto in cosa consiste questa indagine, da dove prende le mosse. È un'indagine che dura da molti anni, 2014, riguarda in realtà ancora le modalità della fusione tra la bergamasca BPU e la Bresciana Banca Lombarda, e riguarda soprattutto la governance, nel senso che l'accusa tende a dire che c'erano dei patti parasociali mantenuti tra l'altro nascosti al mercato, in cui si influenzava in qualche modo l'andamento dell'assemblea e che consentivano come dire, ai vecchi azionisti delle due banche fuse di mantenere un controllo stretto sulla banca quando era ancora Popolare. E quindi è un problema soprattutto di governance, su cui c'è stato ovviamente un esposto e dato vita all'indagine, che è durata parecchio tempo. Adesso l'indagine si è chiusa e ci sono questi 39 avvisi di chiusura indagine che riguardano, come dire, la struttura di vertice della banca, a partire da Giovanni Bazzoli fino a Massià, Moltrasio e Polotti. C'è tra l'altro un altro filone che invece, come dire, è più controverso e, se vogliamo, più di sostanza, che riguarda invece UBI Leasing, su cui è ipotizzato un reato di truffa, e quindi sono filoni che vanno a concatenarsi, però qui il tema è proprio la corporate governance, nel senso che come si gestisce la banca. Sì, insomma, c'era una sorta di patto segreto tenuto occulto, parasociale, comunicato poco e male, che consentiva il controllo dell'assemblea da parte dei soggetti che avevano portato alla fusione, quindi con una discriminazione nei confronti delle minoranze che votavano in assemblea. Quindi è un tema molto legato alle governance sempre molto anomali delle Popolari. Sì, no? Aveva, ecco, una testa... perché poi il tema è questo, no? Il famoso, sì, una testa e un voto, esatto, che ha condotto spesso nelle popolari. Spesso nelle Popolari il tema vero era: se c'è una testa e un voto, indipendentemente dal fatto che io possegga molte azioni, io posso, come dire, si creano gruppi, chiamiamoli, di potere interni alla banca, che attraverso forme di consenso più o meno esplicito formano delle maggioranze, e ovviamente a discapito un po' di qualche funzionamento forse più trasparente del mercato. Questo caratterizzava, visto che tutte le popolari di grosse dimensioni passeranno a SPA, ed è uno dei motivi del passaggio a SPA, è proprio questa sorta di governance feudale. Ricordiamo che Fiorani governava la Lodi come un dominus potente proprio perché contava su questa manovra dei voti in assemblea. Ricordiamo Zonini e Consoli, che hanno governato per oltre 20 anni, essendo veramente dei registi della banca a tutti gli effetti, perché contavano su questo consenso raccolto in modi, come dire, leciti e a volte meno leciti, che governava l'assemblea. Quindi lì il tema era proprio di una governance, come dire, troppo antica per i nostri tempi, e che ha consentito anche delle prese di potere, come dire, molto pervasive dentro la banca. Chiariamo qua chiaramente che si tratta solo di un avviso di chiusura delle indagini, sì. Quindi ovviamente non c'è ancora un rinvio a giudizio, quindi non c'è processo né niente. Dovrà essere tutto il GIP ciò a stabilirlo, dopo che il PM ha chiesto la chiusura delle indagini. Ecco, mentre invece rinvio a giudizio lo abbiamo, sì, e soprattutto richiesta di condanna per il presidente di Carige, l'ex presidente di Carige Giovanni Berneschi, no? 6 anni. Questa è una vicenda penale molto più rilevante, cioè ricordiamo che Carige è una delle tante piccole banche malate di questo paese, perché Carige è una di quelle banche che in qualche modo sottovalutava le sofferenze. Berneschi si è caratterizzato per molti anni per mostrare un utile di bilancio in realtà fittizio, perché non svalutava i crediti malati, e quindi poi quando la Banca d'Italia ha fatto pulizia è emerso un clamoroso buco miliardario, da lì poi l'avvio delle indagini. Questo filone di Berneschi riguarda in realtà una truffa, e la condanna a 6 anni riguarda proprio il fatto che, secondo l'accusa, Carige Vita, che era il ramo immobiliare assicurativo della banca, acquistava immobili e quote societarie da imprenditori a prezzi gonfiati, e questi prezzi gonfiati consentì di fare plusvalenze all'estero a Berneschi, si parla di circa 22 milioni, tant'è che a Berneschi sono stati sequestrati a lui e ai soggetti coinvolti beni per 96 milioni di euro. Quindi qui parliamo proprio di una truffa vera e propria perpetrata ai danni della compagnia assicurativa Carige Vita, che si accollava prezzi di acquisto che non erano di mercato, e quindi con un danno alla compagnia assicurativa e un vantaggio per Berneschi. Naturalmente, lo ricordiamo, appunto, la vicenda portò all'arresto proprio di Berneschi, certo, e di altre 6 persone in questa inchiesta. Oggi c'è stata la richiesta di condanna da parte del PM, vedremo anche qua come si andranno a concludere le cose. Allora, abbiamo toccato Bergamo, abbiamo toccato Genova, e adesso ci fermiamo, sentiamo che cosa succede sulle strade e poi andiamo invece in Veneto per Veneto Banca. Ieri, come si diceva, il via libera dell'assemblea all'azione di responsabilità nei confronti dei vertici, e poi anche la Vicenza, Pop Vicenza, c'è un audit, un'analisi interna piuttosto interessante su come venivano gestite le cose, in particolare, e di questa vicenda abbiamo parlato parecchio anche con i nostri ascoltatori, molti tra loro tra l'altro anche azionisti della stessa Popolare di Vicenza, su come veniva fatta la compravendita delle azioni, ordini lavorati a mano, registri su file Excel senza password che venivano modificati da qualsiasi dipendente, un meccanismo incredibile, traffico. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Focus Economia. Allora, Fabio Pavesi, io partirei da questa vicenda della Popolare di Vicenza, perché devo dire la verità, a me fa impazzire, cioè il pensiero che le cose fossero organizzate in questo modo, non lo so, poi naturalmente è un'indiscrezione, un audit interno, quello che vuoi, però... Sì, sarà anche un audit interno, però, come dire, di sorprese su questo fronte ne abbiamo viste a bizzeffe, nel senso che banca non quotata, valore delle azioni stabilito dal CDA con perizie compiacenti che venivano lautamente pagate, e dicevano sì, il valore è aumentato anche quest'anno. il valore aumenta, c'è il dividendo e quindi gli azionisti rimangono tranquilli perché dicono se mi aumenta il valore vuol dire che la banca è solida. Peccato che chi decideva l'aumento del valore era lo stesso che gestiva la banca. E poi si è visto che cosa è accaduto, nel senso che anche lì la storia assomiglia a quella di molte banche poi andate in crisi, la ricordo velocissimamente, non venivano puliti i crediti malati, per cui c'era una politica di credito molto lasca, nel senso che la banca interessava fare tanto credito perché col meccanismo per cui ti finanzia ma mi compri un po' di azioni, la banca si capitalizzava artatamente, cioè alla banca conveniva fare tanto credito indipendentemente se quello lì poi te l'avrebbe restituito, quindi il rischio di credito che la prima regola del banchiere era omesso, tant'è che si vedono le statistiche, Vicenza e Veneto erano le uniche banche che aumentavano gli impieghi quando in Italia c'era il credit crunch. Uno si dice, ma saranno molto bravi? No, serviva perché il loro problema era il capitale e quindi dovevano costantemente valorizzarlo perché sapevano che erano crediti malati che andavano svalutati. Infatti quando poi tutto è accaduto il capitale è stato mangiato. L'audit ha rilevato che appunto visto che le azioni e la compravendita non essendo quotate la fa la banca stessa, quindi tu che hai le azioni come soggetto che te le può ricomprare è la banca stessa. Quando si è capito nel 2014 che la banca non poteva più comprare perché avrebbe depauperato quel poco capitale che aveva, la banca ha smesso di comprare e quindi doveva trovare un sacco di giustificazioni per evitare di, anche alla gente che chiedeva io le voglio vendere, ti diceva che non era possibile. E quindi si sono messi in campo tutta una serie di stratagemmi, da appunto la trascrizione in Excel senza password, ma anche la MIFID, quando tu vendi bond subordinati, penso a Etruria, poi si è scoperto in Etruria che veniva modificato il profilo di rischio del cliente. Tu sai che un bond subordinato è pericoloso, basta che dici che il tuo cliente è avvezzo alla finanza, gli puoi vendere il bond subordinato. E anche lì si scoprì che la MIFID era cancellata, no, artatamente dai funzionari della banca. Quindi ne abbiamo viste tante. Il vero tema è che adesso partono le azioni di responsabilità. Veneto Banca l'ha deliberata ieri, Vicenza lo farà il 13 dicembre ed è plausibile, avendo Atlante il 99%, che passerà. È il minimo sindacale un'azione di responsabilità verso Consoli e Zonin, perché hanno distrutto di fatto la banca, hanno distrutto patrimonio di 120.000 azionisti per 6 miliardi di euro, tra l'altro concentrati in una regione come il Veneto, e quindi è il minimo. Il problema è l'azione di responsabilità non è automaticamente un ristoro, quindi sarà certo un passaggio lungo e difficile. Ricordo solo una cosa: a Veneto Banca l'azione di responsabilità è stata appoggiata anche lì da un audit che ha dimostrato che i primi 40 clienti avevano 400 milioni di crediti e svalutati sono stati 200 milioni, quindi la banca aveva 40 grandi prenditori di denaro che sono rivelati persone che non erano in grado di ripagare la banca, tant'è che metà di quei soldi sono finiti in sofferenze per la banca, ed erano probabilmente imprenditori che acquistavano i titoli della banca per un corrispettivo quasi analogo, e quindi era una sorta, cioè, di scambio merce, certo, dove il merito di credito era l'ultima delle considerazioni. Allora, io ti ringrazio, grazie a Fabio Pavesi del Sole 24 Ore per essere stato con noi e averci aiutato ancora una volta a raccontare queste vicende in una giornata che ci ha regalato molto di cronaca. A chiudere ci occupiamo di sanità e di federalismo sanitario. Oggi sono stati presentati dei dati interessanti dall'Osservatorio Salute, nel quale si indica, tanto per fare un esempio, che al sud c'è un'aspettativa di vita di 75-76 anni, mentre al nord sono circa 80. E questo dipende da cosa? Essenzialmente da una ragione economica, da come viene gestita la sanità nelle singole regioni, probabilmente anche da come è attrezzato il sistema per rispondere alle differenze che ci sono tra una regione e l'altra. Per darvi un'idea, la regione Lombardia sul fronte degli screening oncologici riesce a coprire quasi tutta la popolazione, in Calabria ha coperto appena il 30% dei residenti. Se ne intende più di me il professor Gilberto Turati, che è docente di scienze delle finanze all'Università Cattolica del Sacro Cuore, redattore della Voce.info. Professore, buonasera. Buonasera. Che si occupa spesso di questi temi. Allora, cosa succede? Riesce a darci un'idea, posto che naturalmente il tema dell'aspettativa di vita non è connesso solamente a quello, è connesso agli stili di vita, è connesso a tantissime cose, però questa è una trasmissione di economia, quindi di quello ci occupiamo. Ci dà un'idea? Sì, mi faccio aggiungere una cosa, che forse conta anche il contesto nel quale le persone vivono, e allora anche su quello una qualche differenza tra nord e sud ce l'abbiamo. Condizioni stressanti che in alcune città del sud dipendono anche dal fatto che ci sono situazioni di criminalità che adesso stanno estendendosi anche in altre regioni, e forse possiamo aspettarci anche qualcosa del genere. Ma lei mi richiamava all'ordine sul versante dell'economia. Certamente, come dire, conta la spesa, e conta la spesa totale, non solo la spesa pubblica, e qui c'è una prima forte differenza tra le regioni italiane, perché è chiaro che l'aggiunta che uno può fare rispetto alla spesa pubblica è completamente diversa nelle regioni del nord rispetto alle regioni del sud. È assolutamente ovvio che la spesa out of pocket, perché di questo poi si tratta, visto che noi utilizziamo poco lo strumento delle assicurazioni sanitarie, è molto più alta nelle regioni del nord che in quelle del sud. E certo, non, come dire, dove non arriva il sistema sanitario, arrivo io con i miei soldi perché ho più reddito, per esempio, cioè mediamente un lombardo ha un reddito più alto di un calabrese, insomma, molto semplicemente. Esattamente, questa è una prima spiegazione. Su quell'altra questione che citava lei giustamente, e che fa parte di tutto il pacchetto di prevenzione, diciamo, lì contano a mio avviso un paio di cose. Conta da un lato la governance e la capacità delle regioni di essere efficaci nel messaggio che riguarda gli screening, perché un conto è mandare semplicemente un avviso a casa e un conto è richiamare gli eventuali pazienti che non hanno risposto agli avvisi. Io non so come si comportano le diverse regioni, ma certamente c'è varianza in merito al fatto di mettere semplicemente appunto dei grandi cartelloni, oppure di andare a tappeto su quelle che sono le persone più a rischio. Dall'altro lato però c'è anche un fattore di comportamento delle persone. È chiaro che conta anche lì, di nuovo, contano aspetti culturali, conta il fatto di avere la capacità, visto che si parla tanto appunto di financial literacy, di interpretare i messaggi che ci provengono da un lato dal nostro corpo, e quindi in termini di salute, e dall'altro dal sistema sanitario. Quindi certo, forse dovremmo parlare anche appunto di health literacy a un certo punto in questo paese. Sì, un'ultima domanda, invece mi scusi per il poco tempo, però la vicenda delle banche, come dire, ci ha catturato molto, insomma, come ha intuito, professore. Il tema invece appunto di quelle che sono proprio le differenze nella gestione del sistema sanitario da parte delle regioni, che lei accennava già prima, a dire il vero. Questo si può vedere un po' da quelle che sono poi le gestioni sotto piano di rientro. Il piano di rientro è scattato perché alcune regioni spendevano molto di più rispetto a quello che veniva loro assegnato. E adesso quel è male spesso, professore, anche. Le valutazioni che ci sono e vanno tutte in quella direzione lì, cioè ci sono alcune regioni che palesemente sono molto in ritardo su tutta una serie di attività, a partire per esempio appunto dagli screening, dal modo in cui si ristruttura la rete ospedaliera e così via. Ed è chiaro che questo è un problema di governance. Molto spesso si continua a dire appunto che ci sono differenze anche nel livello di spesa sanitaria pubblica. Tra l'altro mi permetta di dire che la variabilità della spesa sanitaria pubblica prima e dopo l'introduzione di, chiamiamolo federalismo, anche se non si è mai introdotto del tutto, sì, non è sostanzialmente cambiata, quindi non è lì che uno deve andare a vedere. Questa variabilità riflette nei fatti una sorta di fabbisogno, chiamiamolo così. Sì. No? Ecco, a questo punto bisogna un po' attaccarsi alla questione della governance delle diverse regioni, certo, visto che lei mi sollecitava su questo aspetto della governance delle banche. Forse abbiamo un problema di governance anche di anche delle regioni, evidentemente, l'abbiamo raccontato molto spesso, lo farà sicuramente anche domani Sebastiano Barisoni con la sua consueta classifica sugli sprechi. Noi adesso ci fermiamo, la linea va alla Zanzara. Per quanto mi riguarda, ringraziamenti vanno a Filippo Aureggi in regia, Mauro De Corno in assistenza e in redazione. La trasmissione torna domani dopo le 17, noi ci risentiamo alle 13 con Effetto Giorno. Una buona serata da Simone Spezia. Radio 24, libera la voglia di fare.